La signorina Nitta, sociologicamente parlando, è vestigia di un tempo che non c'è più. Nasce in un paesino dell'entroterra e per garantirle cibo e assistenza viene mandata a servizio da una famiglia più fortunata, sulla costa. Ci arriva a qualcosa come 12 anni e ci rimane tutta la vita. È anche fortunata perché viene trattata bene. Fa i lavori, fa la spesa, fa da mangiare. Quando non ha niente da fare per gli altri, sta seduta in un angolo della cucina, ascolta o si assopisce. Una volta al mese torna al paese e fa la conta di quel che è rimasto dei suoi. Nitta, come chiunque altro, invecchia. Eh sì, l'anno scorso ha avuto una piccola emorragia cerebrale e se l'è quasi cavata. Il volto si è improvvisamente scavato, l'occhio non dice nulla di buono, sulla sua sedia si assopisce più di prima, non è più molto affidabile. I padroni, che poi sono i figli dei padroni di un tempo, le vogliono bene come ad un vero familiare ed hanno pensato, per alleviarle il lavoro e le preoccupazioni, di assumere un'altra persona, almeno per i lavori più pesanti. Nitta la odia. Non sopporta che qualcuno possa fare ciò che ha sempre fatto lei e non lo ritiene neppure giusto. Territorio e mansioni, per quanto servili possano essere, sono un suo diritto. Nitta allora sorveglia. E i suoi sospetti prima o poi portano ad un risultato. La nuova, la sua sostituta, l'estranea che si è intrufolata in casa, ruba. Infatti me l'ha detto proprio appena mi ha visto. Infatti sono sparite delle lenzuola. Mia zia non è propriamente, ecco, quello che si dice un intellettuale. Sveglia non lo è mai stata, e quel po' di perbenismo e ben pensantismo di cui si è provvista al contorno non è mai stato sufficiente a farle dire un che sia di appena appena sensato. Parla come un settimanale femminile, si preoccupa della vita intima dei reali d'Inghilterra e dei matrimoni falliti dai divi della televisione. Vedova da tempo, non ricca, ma senza patemi o impellenze che d'altronde non saprebbe come affrontare, si è scavata un paio di nicchie modeste in località climatiche che alterna al mutare delle stagioni. Le rimane un appartamentino a Milano, da cui emana implausibili telefonate ai parenti quando ci fa ritorno per i cambi del guardaroba. Per quanto non abbia mai rivelato la propria data di nascita, per quanto abusi dei coloranti più vivaci per la restante capigliatura, per quanto spenda in tanfi francesi e cosmetici, per quanto la sua forma di comunicazione abituale non abbandoni mai il trillo frizzoso, mia zia invecchia. L'anno scorso qualche arteriola dell'occhio destro le deve essere andata in malora e dopo qualche giorno di ospedale il suo declino è diventato ancora più appariscente. Neppure più un declino forse, ma discesa bella e compiuta. Siamo agli sgoccioli, insomma, anche se fra di noi familiari, neppur tanto scherzosamente, in grazia della sua coscienza perennemente sgombra, le attribuiamo spesso la facoltà ineffabile di seppellirci tutti. Bene, l'altro giorno, in uno dei suoi rapidi passaggi da Milano, ci ha telefonato. Appariva meno trillante, triste come la può essere lei e nervosa, financo preoccupata perché aveva scoperto che la sua vicina di casa, cui aveva dato in consegna le chiavi dell'appartamento per ogni eventualità in cui potessero servire, che questa sua vicina di casa le aveva rubato tutti i numeri di telefono che lei diligentemente aveva appuntato un po' qua e un po' là in cucina. La signora del primo piano invece era una romagnola sanguigna. Le piaceva il lambrusco e il ricordo sapido, l'aneddoto burlesco di quando era giovane e aveva un marito. Con la signora del primo piano, a farla breve, era un piacere fermarsi e fare quattro chiacchiere. forse per lenire i crampi della solitudine e magari al contempo aggiungere qualche spicciolo alla pensione di reversibilità che spettava la sua vedovanza, questa signora del primo piano ha preso l'abitudine di affittare una stanza e concedere l'uso del cucinotto ad una persona per bene. Persona per bene purché fosse di sesso femminile, purché non uscisse troppo la sera, purché ovviamente non si portasse dietro degli uomini. Da qualche mese la signora del primo piano non è più la stessa. Di colpo, dall'oggi al domani, l'abbiamo vista andar giù, rinsecchirsi, perdere il proprio sorriso, o meglio, tradurlo quel sorriso nelle pieghe di un volto sempre più pietroso. Non sta bene e si vede. La signora del primo piano non esce più come prima. Mia madre l'altro giorno è andata a trovarla ed ha trovato lei in poltrona e alla porta, intenti al lavoro, un paio di operai. Era la seconda volta negli ultimi 3 mesi, ha detto a mia madre, che faceva cambiare la porta d'ingresso e mettere serrature nuove. Perché doveva pensare alla propria sicurezza. Casa sua era diventata meta preferita dei ladri, che peraltro si erano ben guardati dal portar via alcunché, mentre mai lei, vatti a fidare, aveva scoperto che la giovane affittuaria le rubava i tovaglioli. Che fortificare la porta non serva un granché se il ladro è già in casa non la preoccupava minimamente. Qualsiasi cosa sarebbe andata bene per mitigarne l'ansia. Tre storie di 3 persone anziane, di 3 persone che sembrano rendersi conto dell'ineluttabile quando meno se l'aspettavano. Grosso modo la loro esistenza quotidiana prosegue e prosegue sui medesimi binari, ma che i conti tornino alla fine di una giornata troppo corta è più merito di un contesto che, stratificato e saldato negli anni, le sorregge e le guida, più che di una loro consapevole governo di se stesse. Voglio dire che strappate via da quel contesto, a queste persone non rimarrebbero che pochi attimi di sopravvivenza. Alla perentoria comunicazione che hanno ricevuto, una comunicazione trasmessa sotto forma di malattia, hanno risposto con la percezione di qualcosa che veniva loro sottratto. Con i parenti, con i conoscenti, con chi gli sta intorno meno indifferente di altri, esprimono l'urgenza disperata di denunciare un furto. Non si tratta né di lenzuola, né di numeri telefonici, né di tovaglioli, ma del furto della vita.